Adesso inizia il collegamento con Oxygen al Cube, vi riporto là sullo 112, grande notte internazionale Techno Hardcore con ospiti PCP, Rave Creator dalla Germania, The Mover Inferno Brothers, insieme a Freddy K, Walter One Live, Manolo e Tommy Knocker. Quindi buon proseguimento su Power Station Effetto Radio 1893. Ecco qui che sale la musica di Oxygen e in questo momento Manolo DJ. Ok, ciao! Synthetische Droge, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Ecstasy unterdrückt für 8 Stunden das Schlafbedürfnis und hilft, die monotone Techno-Musik besser zu ertragen. Oxygen. Oxygen! Brad DJ! We'll be right back. We'll be right back. Illustrated.